Ottava unità. In banca. Dialogo. Allo sportello del cambio. Scusi, quant'è il marco? Oggi la quotazione è un po' meno di ieri, 748 lire per marco. Allora vorrei cambiare solo 500 marchi. Dunque, in tutto fanno 374.000 lire. Preferisce i biglietti di taglio grosso? Come? Non capisco. Vuole i biglietti da 100.000 o da 50.000? Li vorrei da 100.000, grazie. D'accordo. Mi dà il passaporto, prego? Eccolo. Metta una firma qui, per favore. Subito. Ecco a lei. 100, 200, 300, 350, 360 e 4. 374.000 lire. Grazie. Vorrei anche aprire un conto corrente. Ha la residenza qui? No, sono in Italia da poco e ancora non ce l'ho. Se è così, non è possibile, mi dispiace. Allora niente libretto di assegni. Peccato. Se ha la carta di credito è lo stesso. Anzi, la carta è più comoda del libretto. Per pagare sì, ma non per ricevere contanti. Se vuole può aprire un libretto di risparmio. In questo caso può prelevare o versare il denaro senza problemi. Sì, è una buona idea. Proviamoci insieme. Esercizio 3. Ascoltate e ripetete. Scusi, quant'è il marco? Oggi la quotazione è un po' meno di ieri. 748 lire per marco. Allora vorrei cambiare solo 500 marchi. Dunque, in tutto fanno 374.000 lire. Preferisce biglietti di taglio grosso? Come? Non capisco. Vuole biglietti da 100.000 o da 50.000? Li vorrei da 100.000, grazie. D'accordo. Mi dai il passaporto, prego? Eccolo. Metta una firma qui, per favore. Subito. Ecco a lei. 100, 200, 300, 350, 360 e 4. 374.000 lire. Grazie. Vorrei anche aprire un conto corrente. Ha la residenza qui? No, sono in Italia da poco e ancora non ce l'ho. Se è così, non è possibile. Mi dispiace. Allora niente libretto di assegni? Peccato. Se ha la carta di credito è lo stesso. Anzi, la carta è più comoda del libretto. Per pagare sì, ma non per ricevere contanti. Se vuole, può aprire un libretto di risparmio. In questo caso può prelevare o versare il denaro senza problemi. Sì, è una buona idea. Vocaboli, pagina 202. Carta di credito. Libretto di risparmio. Libretto di assegni. Biglietto di taglio grosso. Biglietto di taglio piccolo. Ottava unità. Ascolta e rispondi. Esercizio 16. Alla cassa. Vorrei aprire un conto corrente. Lei è straniero, vero? Sì, ma ho già la residenza qui. Allora è a posto. Ha con sé il certificato di residenza e il passaporto? Sì, ce li ho. Bene. Quanto vuole versare? $1,000. Se mi dà i documenti, preparo il modulo che lei deve firmare. Tenga. Ecco, deve mettere una firma qui. Ecco fatto. Posso avere subito un libretto di assegni? Certamente. Grazie mille. Facciamo il punto. Comprensione orale, pagina 213. Vorrei versare dei soldi sul conto 34765. Ha già il modulo? Sì, ma non so che cosa devo scrivere. Lei come si chiama? Laura Romani. Ecco, scriva qui il suo nome, dove dice effettuato dal signor. E a chi è intestato il conto? E come, scusi? Come si chiama la persona che riceve il denaro? Giovanni Gallotti. Ecco, lo scriva qui. Vicino metta il numero del conto. 34765. Ok. Che somma vuole versare? 350.000 lire. Le versa in contanti o con un assegno? In contanti. Eccole, sono precise. Vediamo. 3 da 100.000, 1 da 50.000. Allora, qui scrive 3 e qui 1. 3, 1. Bene. Adesso deve scrivere qui il totale, 350.000, cioè la somma che lei versa. In fondo poi scriva la data di oggi, il suo indirizzo e metta la firma. Ecco, va bene così? Sì, benissimo.